Yes people, questo è Jolly Roger e partiamo con questa nuova puntata di venerdì 16 dicembre, puntata speciale come preannunciato nei vari social. Abbiamo un po' di ospiti e piano piano inizieremo questa nuova puntata che sarà una puntata molto più chiacchierata del solito perché ne avremo abbastanza da raccontare. Ringrazio e saluto tutti gli amici del Branca, saluto le amiche del Gas che condividono con noi lo spazio ormai un'amicizia consolidata, saluto tutti i colleghi di Tea Prisma e tutti coloro che ci ascoltano. Iniziamo questa nuova puntata così. Mama was queen of the Mongol, Papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, 'cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city looking for a bigger crown. So I play my bongi for the people of big city, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Nobody like to be in my place instead of me, 'cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town, but I'm a king of bongo, baby. I'm the king of bongo bong. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo. Hear me when I come. They say that I'm a clown, making too much dirty sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody like to be in my place instead of me, 'cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come. Banging on my bongo, all that swing belongs to me. I'm so happy there's nobody in my place instead of me. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come. Mama was queen of the mambo, Papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, 'cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. Hit me when I come. Hit me when I come, baby. Hear me when I come. J'aimerais mourir tellement j'ai voulu croire. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien avoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te voir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Parfois j'aimerais mourir tellement y'a plus d'espoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te revoir. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien savoir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus. Torniamo in diretta, questo è Jolly Roger, tutti i venerdì dalle 17 alle 18. Questa è una puntata speciale, una puntata in cui Jolly Roger incontra Welcome. Ora passerò il microfono all'ospite speciale, Emanuele Pedrera, l'irresponsabile di Welcome, come si è definito lui, e a noi ci piace così perché è bello essere responsabili, è bello essere sciolti e disinvolti, soprattutto senza ruoli e compagnia bella. Ora passo direttamente il microfono a Emanuele che ci racconta un po' che cos'è Welcome. Allora, buonasera a tutte e tutti, grazie Pietro, Alice, Elena, tutto lo staff di Jolly Roger, grazie per l'opportunità di venire qui a parlare un po' del lavoro che svolgo. Io sono un socio lavoratore della cooperativa di Debrismo 82, che lavora in terzo municipio, e in terzo municipio abbiamo un progetto di accoglienza, inclusione e interazione per persone migranti, in particolare famiglie migranti, titolari o richiedenti o titolari protezione internazionale. Ringrazio insomma la radio, lo staff dell'invito, perché stiamo all'interno dell'anniversario della giornata internazionale delle migrazioni, tanto che in terzo municipio stiamo facendo tutta una serie di attività, iniziative. Pure ieri sera Pietro è venuto a Dischi per Fiaschi, dove abbiamo giocato con dei giochi di una volta, abbiamo interagito, abbiamo scritto poesie insieme a Stefano, scusate la voce, si sente da ieri sera, insomma, i giochi, insieme a Stefano e a Piramide, che sono due poeti della trasmissione Ridi, e, insomma, tante iniziative. Oggi abbiamo anche un caro amico ospite che ci è venuto a trovare, con cui collaboriamo da tanto tempo, e si chiama Fabio, della SD Quintilio Primo di Tivoli, che è un maneggio inclusivo, come se l'ho detto male, tanto poi lui si arrabbierà, parlerà lui e poi si arrabbia con me. E quindi diciamo Welcome, terzo municipio, abbiamo 29 persone ospitate. Sono tante lì? Sono tante, sì. E sono 9 nuclei familiari, le 3 strutture, perché sono 3 appartamenti. Uno si chiama Welcome Espero 1, che sta a Val di Nievole 8, e per chi vuole stasera dalle 7:30 facciamo un aperitivo Welcome a porte aperte, per i porti aperti e sicuri. E quindi questa sera via Val di Nievole 8, scala D, interno 3, chi vuole venire, siamo ben lieti di ospitarvi all'aperitivo, è un modo per conoscerci e far conoscere il lavoro che facciamo. Quindi Welcome Espero 1, poi abbiamo Welcome Espero 2, chiaramente tutte e due stanno nel quartiere Espero, e l'altro si chiama Welcome Serpentara, perché sta a Roma, brava Alice, a Serpentara, che è un modo pure per far conoscere i quartieri, quindi pure ai nostri ospiti. E niente, poi insomma facciamo tantissime attività, tra cui appunto quelle di cavallo, insieme al nostro amico Fabio e al suo staff delle sarette, ed Elio, Franco, insomma, tanta roba. Un saluto a Guidonia, un saluto a Tivoli, un saluto a SD Quintilio Primo, speriamo che stanno connessi, se no poi gli menamo, bravo. E io quindi, se Pietro, Alice, Elena, tutti quanti siete d'accordo, io direi che magari Pietro passiamo un pezzo musicale e poi ritorniamo con le domande di Alice e Emanuele. Ok. Grazie. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel, pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel, argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. E ritorniamo in diretta, questo è Jolly Roger, come tutti i venerdì dalle 17 alle 18. Puntata speciale, Jolly Roger incontra Welcome, incontra una realtà territoriale che soprattutto in questi tempi bisogna supportare, visto comunque l'andazzo politico. Ma detto questo, abbiamo anche un altro ospite a cui passo subito direttamente il mic. Sassa, prova. Buonasera a tutti, io sono Fabio e sono il sindaco della Repubblica Autonoma del Quintilio Primo. No, scherzo, noi siamo una piccola SD che gestisce un maneggio inclusivo, così ci hanno denominato, a Tivoli, proprio alle porte di Roma. Inclusivo perché lavoriamo tanto sull'inclusione, ci piace molto, come dire, che tutti abbiano le stesse possibilità di fruire un mondo fantastico che è quello dei cavalli, e con questo espediente cerchiamo di rendere tutti felici e a proprio agio. Da un anno a questa parte collaboriamo con Welcome, abbiamo realizzato diversi eventi. La cosa cresce, è stabile e si rafforza giorno per giorno. E poi, che dire, veniteci a trovare, ecco. Ok, ora ritorniamo, era come detto prima del nostro pezzo musicale, al momento in cui Alice farà due domande a Emanuele, così entriamo nel vivo della diretta. Emanuele ci racconta qual è la differenza tra rifugiato politico e immigrato. Ok, allora, Alice, molto interessante la domanda che hai fatto. Allora, innanzitutto diciamo che parliamo di persone, no? E sono persone migranti che chiaramente, come diciamo pure prima mentre chiacchieravamo fuori dai microfoni, sono persone che vengono da altri paesi, alcuni anche molto belli e purtroppo anche brutto. Purtroppo a volte ci sono anche situazioni brutte e quindi diventano brutti pure i paesi, E queste persone migranti, chiaramente, quando migrano, come tutti noi, pure anche noi italiani migriamo in altre parti, se vogliamo andare a studiare o piuttosto che vogliamo trovare un lavoro che ci soddisfa di più, che ci piace di più, o non ci soddisfa la situazione qua in Italia, che facciamo? Andiamo in Europa, andiamo da un'altra parte. Quindi queste persone migrano, quindi decidono di viaggiare, e solitamente questa scelta avviene perché sono tanti i fattori o le cause che spingono una persona ad andare via dal proprio paese. Motivi perché non hanno delle cure mediche adeguate nel proprio paese e quindi vanno a cercare un paese dove è possibile avere delle certe cure mediche, sanitarie. Oppure migrano e quindi magari scappano perché c'è una guerra in corso, quello che per esempio sta succedendo adesso in Ucraina. Forse viene dopo. E poi abbiamo situazioni in cui appunto la guerra, no? Che è una cosa brutta, chiaramente. Che cosa fa? Fa scappare le persone che cercano invece la pace, una situazione dove magari possono vivere tranquillamente. Io ho saputo che c'era il terremoto in Austria. E io ho visto il meteo tante volte, ogni volta che c'era qualsiasi cosa, era sempre un problema, ma cioè, non riusciamo a capire il perché ci stanno queste cose. Allora guarda, l'altra cosa importante che hai detto è che le persone a volte migrano, quindi scappano, per alluvioni, terremoti, eventi catastrofici, ambientali, e la colpa è sempre la nostra, però, è chiaro? Siamo d'accordo lì? Beh, non è proprio nostra, ma anche è la colpa di chi non ha casa. Ah, ecco, perché è una colpa. Diciamo, non è proprio una colpa loro, diciamo, è la colpa di chi non vuole avere fatto casa. Cioè, diciamo, chi scappa non va... non riesce ad andare a uscire subito, no? Dalla regione. Quindi non è facile. Volevi dire qualcosa? No. Era su responsabilità, sì. Forse volevi, se non ho capito. Diciamo che la responsabilità è nostra, no? Per esempio, noi esseri umani, nel momento in cui non rispettiamo l'ambiente, no? Lo deturpiamo. Guarda pure quello che è successo a Ischia, no? È vero, c'è stata l'inondazione, no? Frane, abbiamo avute pure all'SD Quintilio Primo. Ma perché? Perché l'uomo sfrutta troppo l'ambiente, lo sfrutta malamente, non c'è una convivenza, per esempio, sana, giusta, adeguata con l'ambiente. Chiaramente poi l'ambiente non ce la fa e quindi poi succedono poi le catastrofi, ma come anche l'inquinamento. Io, per esempio, sono nata a Roma, sono nata... perché devo vivere e devo avere casa per forza per vivere. Allora guarda Alice, questa cosa che hai detto è giusta, quindi ogni persona ha diritto di vivere dignitosamente, di avere una casa, un lavoro, la salute, diritto della salute, giusto? Ok. Giusto. Oggi che avevi detto a Elena, Elena è saggia perché è umana. Perché me la dice lei. Ah, ecco. Allora, perché questa, per esempio, se noi, Alice, questa no, che oggi tu hai detto questa frase molto bella, forse la saggezza è proprio l'essere umani, è l'umanità proprio, no? Quindi avere il rispetto delle persone. Vai, giusto, comunque è giusto, sì. Siamo d'accordo, per fortuna, oh, me la stavo rischiata. E quindi dicevamo, quindi c'è questa differenziazione tra le persone migranti che vengono per diversi motivi. Quelli che vengono per motivi che sono per sicurezza per la persona, perché sono perseguitati o perché c'è la guerra o per la catastrofe, quindi sono dei motivi che fanno sì che la persona migrante che arriva in Italia, più in Italia o in Europa, fa una richiesta di protezione internazionale, quindi chiede agli stati una tutela per la salvaguardia della propria vita. E quello, quella persona, nel momento in cui arriverà di fronte a una commissione, racconterà la sua storia del perché è fuggito dal proprio territorio, e da lì la commissione valuterà se riconoscergli lo status di protezione internazionale e quindi di rifugiato politico, che era la tua, per ritornare alla domanda che mi hai fatto, perché sennò poi mi perdo, capito? Perché poi parlo e... Ti ho risposto alla domanda? Abbastanza bravo? Sì. Chiaro? Soddisfatta. Diciamo, ha detto una cosa importantissima. È giusto raccontare cose importanti, perché servono per tutti noi, tutta la regione Italia, perché noi viviamo e siamo italiani. È giusto che parliamo la nostra lingua. E soprattutto è giusto. E soprattutto viverci. Perché l'Italia che fa? Dai, intanto proseguiamo con la nostra scelta musicale. Nel frattempo sono arrivati Lucone e Damiano e proseguiamo con la nostra scelta musicale. Prima di incontrare voi io mi sentivo solo, pensavo questo mondo è un covo, io non mi ritrovo. Mi sentivo in lutto dentro una canzone blues, un clandestino sopra un autobus. Voglio il mio surplus, occhi stanchi di subire, questo è il mio make up. Mi sfogo dentro un nuovo rap e dico a tutti fuck. Mangiavo fuori al cielo, sotto al cielo, perché senza pass. Fuori dal mainstream, fuori dall'impasse. E pensavo anche a mia mamma, cara mamma mia, ti ho salutato in riva al lago nella pandemia. Guardo una fotografia e che malinconia, mentre la democrazia se ne vola in un momento via. Trattati come i secchi lungo i marciapiedi, sogniamo un mondo che ci apprezza e so che tu ci credi. Quanto hai combattuto col tuo accento bretone francese, persone stupende che non si sono mai rese. Ale ale ale ale ale, yo, stavolta sta canzone la canto per me. Courage, courage, courage, on y va, viva, viva la resistenza, viva, viva, viva. Courage, courage, courage. Piano non parlavo quasi con nessuno, solo con pochi fratelli a farci forza uno a uno. Una voce amica, 10 rumori di guerra, ognuno imbraccia un'arma, io tengo i piedi per terra. Col rap nelle scuole, rivedo il sole per parlare al cuore. Il pass non ci vuole, pure Paul Gignu, che è pieno di virtù, ma c'ha poche a credito, scrive il suo CV e risaliamo su. Siamo qui, siamo vivi e siamo ancora noi, mentre usciamo da sto baratro e fuggiamo gli avvoltoi. Respiro con la pancia, tiro fuori l'ansia, chiusi in una stanza, Polgi usa la sua gancia. Ale ale ale ale ale, yo, stavolta sta canzone la canto per me. Courage courage courage, on y va, viva, viva la resistenza, viva viva viva. Solite notizie sui telegiornali, 20 anni di guerra e hanno vinto i talebani. Basta news in TV, neanche fosse un tic. Mi rileggo per 3 volte l'incipit di Moby Dick. Mi sento un po' accerchiato, mi sembra di star bene, poi male, poi di nuovo in buono stato. Non grazie a questo stato, canto la mia rima per l'autostima, per risalire in cima, per il coraggio di uscire dall'ipnosi, anche se la vedo brutta. Voglio tenere insieme una comunità distrutta. Sembra il giorno dopo una nottata per la confusione, non vedo l'ora che andrà via sta sensazione. Ale ale ale ale ale, yo, stavolta sta canzone la canto per me. Courage courage courage, on y va, viva, viva la resistenza, viva viva viva viva viva, viva. Senza pass, fuori dal mainstream, fuori dall'impass, fuori dal mainstream, fuori dall'impass. Ale ale ale ale ale, yo. E ritorniamo in diretta. Questo è Jolly Roger, come detto prima, venerdì 16 dicembre. Ritorniamo a una puntata speciale. Jolly Roger incontra Welcome. Ora proseguo io con una domanda, Emanuela, gamba tesa proprio. e così ci prendiamo un po' di tempo per conoscere anche Welcome. In un'ottica di futuro, che non è un futuro molto roseo visto la situazione politica, come ti immagini possa resistere Welcome? Allora, sicuramente, e questo lo sappiamo dalle dichiarazioni del nostro presidente, il presidente del Consiglio... Esatto, il nostro no, perché non ci appartiene. Diciamo che è chiaro che dalle sue dichiarazioni la posizione è quella molto di chiusura delle frontiere, gestione delle frontiere, contenimento delle frontiere, alimentare i centri di detenzione che sono in Libia, che paghiamo noi quei soldi. Quella è Viale Libia, brava però, perché è il quartiere, quartiere africano, Viale Libia, c'è Viale Eritrea, Viale... vedi cosa, Viale Somalia, cioè lo sai le cose, vedi? E quindi chiaramente questa politica è una politica, non voglio esagerare con i termini, però sicuramente è quella di stop, di fermare, di creare muri. E questi muri però rischieranno di generare ancora più morti, perché chiaramente... In Libia, ormai non lo sappiamo, sta alla luce di tutti, in Libia sono dei veri e propri carceri, dei centri di detenzione dove le persone muoiono, sono, come dire, torturate a tutti gli effetti. Dopo tutto... Privati di qualsiasi diritto. Assolutamente sì. Dopodiché queste persone che stanno provando a fare il loro viaggio, il progetto migratorio, grande Lugone, sentilo come scrocchia, che loro provano a fare questo loro viaggio migratorio, che succede? Oltre a tutto questo provano a barcare il Mediterraneo, quindi no, così, barche, gommoni, i tipici sbarchi sono quelli a Lampedusa, dove noi per esempio con ASGI, Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, Spazi Circolari, organizziamo anche dei corsi per gli operatori che lavorano in frontiera, in questo caso frontiera marittima. Io con la mia classe ho fatto una gita con la classe mia, e ho fatto una gita dove sono andata in un posto dove c'erano gommoni grossi, e sono andata in delle presenti. Vi siete presenti i ponti alti? Tipo sì. Le discese, i punti alti, le discese, esatto. Ho provato l'esperienza dell'acqua, ci siamo schizzati tutti, diciamo. Ah, ecco, la pensa. Allora, noi l'abbiamo fatto, tu l'hai fatto con piacere, no? È stata una cosa, quindi, divertente. Immagina che queste persone, quando partono, viaggiano per giorni, di notte, alcune persone neanche ce la fanno, muoiono in mare, no? Oppure quelle che ce la fanno, che arrivano, per esempio, e però cosa succede? Che dopo tutte queste torture, il viaggio assurdo, arrivano in Italia e il fatto di non accogliere io lo trovo assurdo. Come posizione, che è la posizione quella più, secondo me, legittima, di tutela, legale, umana, di dignità, è che le persone possano essere libere di migrare, di andare dove vogliono, indipendentemente dalle situazioni. Anche perché poi parliamoci chiaro, se le persone migranti non arrivano in Italia, noi tra un po' implodiamo, perché non facciamo più figli, no? Sì. Non siamo più produttivi. Né la nostra di... generazione sì, è una generazione che ha saltato la procreazione, direttamente. Quindi abbiamo un problema, perché poi non si fanno politiche di welfare, quindi non è che c'è una tutela delle persone per dire... fate figli o politiche sane di occupazione, crea occupazione, e quindi insomma il problema insomma è grande, tutto quanto. Spero di averti risposto più alla domanda, sì. Però la posizione che sarebbe quella ideale per tutte e tutti, e di rispetto, ripeto, della vita delle persone, perché la vita è sacra, ma è sacra non come termine religioso, sì. Ma è sacra in maniera laica, per come la vedo io, cioè che non può essere toccata e va sempre comunque tutelata. Perfetto. Un'ultima, anzi no, faccio fare una domanda ad Alice, che era rivolta più che altro a Fabio. Passo il mic ad Alice e poi io farò dopo una domanda a Emanuele. Guarda, Fabio, che cos'è l'inclusione? E passo il mic a Fabio. È una domanda bellissima questa, veramente. L'inclusione, secondo me, al mio modo di vedere, viviamo in una società dove la differenza la fa da padrona, quindi ci dividono in varie categorie, piccole categorie, bianco, nero, rosso, giallo, che ne so, a seconda dell'orientamento politico, dell'orientamento religioso, anche no, sportivo, se vogliamo, no? Quindi nel nostro piccolo cerchiamo di creare una bolla d'aria dove ognuno possa essere se stesso e felice a proprio agio, facendo un'accezione buddista, nella piena indipendenza della propria ideologia. Chiaramente è una goccia nel mare, no? Ma il mare è fatto di piccole gocce, quindi cerchiamo di portare avanti sempre di più questo tipo di politica, se vogliamo. Anche. Pensa, siamo riusciti a tollerare anche i laziali e gli astemi. Sugli astemi ci stiamo lavorando su, Alice. Sei bellissima, Alice, grazie mille. E grazie a Fabio, grazie ad Alice, e andiamo con un altro pezzo musicale e poi ritorniamo sempre qui in diretta. De corpi tu me n'hai mannati tanti, ma sto meglio di prima e vado avanti sulla mia strada senza ben pensanti. Mi trovo meglio insieme coi pezzenti. Noi siamo svergognati e miscredenti, e al paradiso non c'avemo santi. C'avemo il pane senza veli denti, e chi comanda faccia i testamenti. Fiore di niente, ammazza come no, ce l'ho presente, è il succo del discorso è deprimente, che hai faticato e non te trovi niente. Fior d'accidente, per tempo non è stato mai galante, e me ne resto come un deficiente, nel mare moto senza il salvagente. Attacca suonatori, allarme, allarme, dovemo risvegliar serpe che dorme. Si conti quanti siamo e come stiamo, ci torneranno i conti se s'alzamo. Li famo scappa via dal cornicione, li famo ruzzolata le poltrone. E se verrà quel giorno del giudizio, signor padrone, ce pagherà il dazio. Fiore di niente, ammazza come no, ce l'ho presente, e il succo del discorso è deprimente, mi hai faticato e non te trovi niente. Fiore di piombo, la gente si è stufata di sto mondo, e quando finirà sto giro tondo, chi è nato quadro non sarà rotondo. E ritorniamo in diretta, questo è Jolly Roger, puntata molto di chiacchiera, ma una puntata speciale. Salutiamo il nostro amico di crew Luca, il nostro amico Matteo, che non sono presenti in questa puntata. Ora, prima di far fare delle domande a Damiano, faccio un'ultima domanda scomoda, Emanuele. Allora, so che per lavoro sei stato tante volte a Lampedusa, hai Lampedusa nel cuore. Prova a descriverci con breve cosa ti lega, non solo dal punto di vista lavorativo, a Lampedusa. Allora, grazie Pietro per la domanda. No, non è scomoda questa, dai. No, va bene. Pensavo che... Beh, Lampedusa innanzitutto, come ti dico, è la grande bellezza, un'isola bellissima. Io vi invito pure ad andarla a vedere, se non ci siete mai andati, andate. E, è veramente una bella isola. E c'ha questa situazione che purtroppo è questa piaga, no? Ma perché è una piaga che creiamo poi noi, no? Perché le persone migranti arrivano, arrivano in quelle maniere, poi c'è il centro d'accoglienza di Lampedusa che... Poi c'è l'informazione che fomenta, gioca, esatto, che fomenta, esatto, e quindi crea il terrore, la paura, esatto. Io stanno arrivando come mamma di turchi, come esatto. Si diceva una volta. Quindi, secondo me è importante... E questo veramente parlo come per Lampedusa, andare a Lampedusa, ma per Lampedusa, per i lampedusani. Io ho un sacco di amici lampedusani, anzi saluto tutti quanti. Ci sono artisti, c'è una bellezza naturale che è spaventosa, c'è l'isola dei conigli che è un spettacolo della natura, quindi è bellissima. E andare lì con la consapevolezza, perché è chiaro che c'era poi quell'aspro, quel retrogusto, esatto, un po' amaro ma non piacevole, sì. Che vedi che sono coste che magari hanno visto tante persone sbarcare. C'è un teatro M bellissimo al porto di Lampedusa e loro c'hanno tutta la porta e anche dentro è fatta con i legni, con i pezzi di legno delle prime barche dei pescherecci che arrivavano dalla Tunisia, dalla Libia. E anche il famoso crocifisso, quello costruito con i remi, che è stato donato alla comunità di Lampedusa. Esatto. Poi, vabbè, poi c'è la Porta d'Europa, sì, c'è, questo, c'è poi questo monumento gigantesco che è la Porta d'Europa. Però secondo me l'importante è, da una parte, sempre... tener conto della memoria, intanto succedono cose strane nello staff, sempre. Abbracci, cose, Damiano... È una puntata molto love. Molto love, love, love, love, love, love, love. E quindi, insomma, sì, Lampedusa è bella, e l'importante è quello che dicevo della memoria, perché non dimentichiamo mai quando diventiamo poi disumani. Dobbiamo fare di tutto per fare in modo che questa disumanità venga cancellata per sempre. E vado giù a Lampedusa spesso e volentieri, non per lavoro, perché mi piace Lampedusa, e magari c'ho dove militanza. Mi è successo due volte che mi hanno allontanato da Lampedusa, perché sempre per quella questione dei diritti umani ho un po' varcato un confine che dessi tempi. Più che confine è proprio un'esecuzione. Esatto. Quindi però andiamo a Lampedusa. Lugone, ci andiamo a Lampedusa? Torniamo? No, così non lo vedono in radio. Sì o no? Sì. Andiamo a Lampedusa. Perfetto, ora passo il mic a Damiano, che voleva fare delle domande, una a Fabio, a cui passo subito il microfono, e poi a Emanuele. Buonasera a tutti, e avrei una domanda da chiedere. Alza la voce. Sì, hai ragione. Avrei bisogno di chiedere una domanda... sia Emanuele che a Fabio, che chiedergli, ma voi per caso, sarà una domanda molto ovvia, però così per togliermi sta cosa dalla testa, un sassolino, ma voi siete di religione della Stefania, visto che avete questo look un po' esplicito, ecco, detto in gergo? Vai, ora risponde prima Fabio. La mia grazia, mi ha rimesso un mutande un'altra volta, Aspetta, io più che religioso mi ritengo una persona molto spirituale, quindi non mi sento di nessuna religione, ma no, cerco più la spiritualità. Votiamo Thor, alle prossime elezioni vota e fai votare Thor. La spiritualità è diversa dalla religione, ci porta a contatto con... questo è un concetto, ci hanno sprecato tante pagine, tanti scrittori, ideologie e cose. Poi a seconda della regione geografica dove nasci, sei costretto, no? A trovarti quello che ti hanno tramandato. Sei nato qui e quindi c'hai Gesù, se nascevi là c'avevi Maometto, se nascevi... Capisci? Quindi, fondamentalmente, ripeto, secondo me... Bisognerebbe fare più un passo verso la spiritualità che verso la religione. Ma per te, diciamo, per te esiste Dio? dal tuo punto di vista pensieroso, nel senso impetetiste. Mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Beh, vabbè. Se non in presenza del mio avvocato. No, a quest'ora soprattutto. Passo il microfono. Spirituale. Ah, ok. Esattamente, bravo, molto più vicino all'animismo dei nativi d'America o comunque al buddismo, che è un'igiene mentale più che una religione. Il buddismo non è la religione, esattamente, in cui ognuno ha contatto con l'energia superiore, che non è identificabile in un dio con dei dogmi o della serie dei precetti. Io la vedo così, poi, per carità, dal mio punto di vista. Però se più spirituale non è una religione, perché hai lo spiritualismo, si può dire in gergo, come dire... Non ho capito. Voglio dire, non hai una religione vera e propria, però hai più uno spiritualismo, si può dire. Sei spirituale ma non religioso, come dire in poche parole. Capisci? Sappiate che oggi è il mio compleanno e Damiano mi fa sta domanda. Grazie, grazie mille, grazie, grazie Damiano anche, soprattutto. Però secondo me... risponde Emanuele. Peggio ancora, ragazzi. Io sono più diplomatico. Però secondo me Dio si può trovare più sotto un albero che dentro la chiesa, a mio avviso. Passo la domanda al microfono ad Alice, che mi guarda con questi occhi sfodenti, vero? Diciamo di quello che ha detto, che lui non ama Gesù. Perché mi vuoi? Tu bravo, hai detto un'altra cosa di Gesù. No, io sono comunista, eppure mangio. Ah, bene. Ok. Ora, visto che Fabio ha risposto, ora è il momento che risponde anche Emanuele. Ecco fatto. Allora, Damiano, io non lo so perché c'hai rasta. Non te lo so di perché. Perché? I dreadlock, come giustamente però è oggi Alice, la prima cosa che ci ha detto, appena siamo arrivati in radio. Qual è stata, voglio dire? Qual era la domanda? Via domanda. Che gli hai chiesto appena la visita? Ma sti capelli? Ma sti capelli? Capito, come siamo arrivati, no? Così, proprio subito, Allora, io ti dico che per quanto mi riguarda, sono comodi. Non è un fatto di stile, insomma. Non è un fatto di stile. Ok. Però una cosa che mi... Anche economici, il barbiere non ci vado più, è chiaro, mi pare evidente. Il mio barbiere è morto, amico. Come puoi dirlo con altro? Però una cosa... Così non incrementiamo l'economia. No, per niente, no, la stiamo a buttare giù, e te capirai. Però Damiano, una cosa che penso è questa, che mi piace però del Rastafariano, il movimento, la religione. No, però è che il fatto di non modificare troppo la propria immagine. Diciamo, no? Che cosiddetto è uno stereotipo, si può dire. Diciamo, non è che è uno stereotipo, se faccio l'esempio Bob Marley, un po' lo conosci. Lo conosci? Sì. Ah, ok. Allora, Bob Marley, per esempio, per quanto era radicale, lui aveva il tumore su un'unghia, sì, che avrebbe potuto tagliare il melanoma. Esatto, avrebbe potuto tagliare l'alluce, però dato che la religione non consente interventi sul proprio corpo, la carne, per esempio, insomma. Esatto, quindi lui si è lasciato morire, che era una persona coerente, poi Bob Marley. Ecco perché lui è morto, ho scoperto questa cosa tramite mio padre. Ah, vedi, bravo tuo padre. Lui è morto tramite questa cosa, ovvero che... Che lui è morto praticamente in questa cosa, ovvero doveva tagliarsi un alluce per togliere il tumore, ma lui la rifiutò e arrivò fino al cervello e purtroppo nell'81 morì. Grande Damiano, grande pure tuo padre. Eh? Sì. Salutiamo tuo padre, si chiama? Francesco si chiama. Francesco, complimenti. Ciao papà, ti salutiamo. Grande. Sei grande. Ci piacciono anche i bassi della religione. I bassi. C'è festa? C'è festa. C'è festa. Allora, e poi l'altra cosa che volevo dire invece, che mi trovo molto allineato anche con Fabio. Io per esempio non sono religioso, anche perché, Alice, così ti rispondo pure un po' all'altra domanda, spesso le religioni hanno creato guerre e continuano a creare guerre. Lo spiritualismo, quello di cui parlava l'amico tuo fratello Fabio, lo spiritualismo non crea guerra. Invece le religioni spesso e volentieri, sai, l'Islam, il cristianesimo, insomma, Noi siamo stati i primi, no? Con le crociate, ce lo ricordiamo, no? Siamo andati ovunque, abbiamo torturato, ammazzato, massacrato e quant'altro. Quindi la religione, purtroppo, quando è, come dire, istituzione che punisce, la Santa Inquisizione, non so se, no? Se hai mai sentito parlare del Medioevo, la Santa Inquisizione con le streghe, ammazzano le streghe, che poi non erano streghe, ma erano donne che magari erano particolari, erano artiste magari. Prego, scusami. Dice. Come i film. Come nei film, ci sono tanti film che parlano di queste cose. Quindi la religione, per esempio, spesso e volentieri è un'altra causa che genera migrazioni. Perché le religioni si contrastano, si fanno guerra tra di loro e le persone che fanno parte o di una religione o di un'altra stanno in mezzo e sono le vittime. E solitamente le vittime sono sempre i poveri, sono gli ultimi, perché tra i potenti non sono mai vittime. Ma tu ti considereresti ateo anche se sei spiritualista? Diciamo, credi in un Dio per te? Allora, diciamo che sono laico. Mamma mia, stasera, oh, ma che davvero, è sempre così, io non ci vengo più. Ma allora, come la sa zero, Damia, giuro. No, mo è... Perché ti lasi a zero? Perché mi stai a torturare. La no, no, sto giocando, sto giocando, sto scherzando. Sto cazzarando, bravo, grande Damiano. Hai scattato l'abbraccio, non lo potete vedere, ma se volete l'abbraccio. E io penso di essere laico. E te dico una cosa. Che cosa? Te la dico? Dillo. Sei pronto? Assolutamente sì. Ok, secondo me... Anche Dio è laico. Chiaramente noi siamo per il partito di Thor, figlio di Odino. Ragnarokkiani, si dice uno che è di rana, no? Come si chiama il genitore? Ragnarok? Non mi ricordo. E tanto Emanuele è un attimino svenuto perché si immaginava tutto tranne questo. Una mezza grappa? Non sono la flebo, ma... che mi sei quasi Damià, la cosa che ti dico è questa. Io sono... Mazza lui, mi guarda così. Mi sento molto spirituale, direi laico, molto rispettoso di... tutte le religioni, basta che non creano burdelli, disastri. Grazie Damiano, non mi viene la parola, disastri. E ti dico che c'ho un'immagine, se un Dio c'è, se esiste, secondo me è donna, e viene dalla madre terra, bravo, che è l'Africa. Quindi se un Dio esiste, è donna e viene dall'Africa. Però, diciamo, non ti consideresti neanche per dire agnostico, visto che... non è né ateo né credente una persona agnostica, come dire. Alla mia, mi considero Emanuele, io cooperaio sociale, faccio il lavoro sociale. No, no. Voglio dire, impegnativa questa intervista. Avevamo detto che oggi era una puntata di chiacchiere, ma proseguiamo con la nostra parte musicale. L'amore nostro tu lo butti al fiume, senza girate, senza vedolore. Io me ce tuffo e lo riporto a riva, lo tengo appiccicato addosso al cuore. E il male che m'hai fatto non è niente, non m'è sembrato poi così speciale. E il bene resta a me che è roba mia, te lascia lavorare de fantasia. Ma se te viene freddo quando è sera, scordate qual è la porta mia. C'ho il fuoco acceso e non me manca niente, figurate se cerco compagnia. E il male che m'hai fatto non è niente, non m'è sembrato poi così speciale. Fatto il nido addosso. uccide manco un'ora. È stato solo un giorno primavera, eppure si ci penso mi consola. Il male che mai fatto non è niente, non mi è sembrato poi così speciale. Welcome, Jolly Roger incontra Welcome, uno special, poi ci saranno altri speciali in futuro, ma intanto proseguiamo con questo. Allora, faccio l'ultima mia domanda a Emanuele, poi lasciamo il microfono libero e vediamo cosa esce fuori. Allora, come risponde il territorio di una realtà come Welcome? Bravo, grazie. Grazie Pietro, mi sono applicato, ti sei applicato, un'altra bella domanda. Allora, ti ricordo Welcome, innanzitutto facciamo 8 anni, cioè chi fa 16 anni come Fabio oggi, noi 8 anni di Welcome e 40 anni di Diaprisma, un sacco di compleanni, eh. Esatto. Quanti anni fai tu Pio oggi? Tu fa 44, eccoci, di... 44, sei del 79, e mo sanno tutti quanti. Esatto. Allora, la cosa bella secondo me di Welcome è che come metodologia proprio, impostazione, si è sempre proposta come intervento di comunità e quindi di interazione sempre col territorio, quindi il bar sotto casa, il giornalaio, il vivaio, il ferramenta, il ristorante, il meccanico, noi interagiamo con tutto il territorio. Tutto il territorio ci conosce, pure la finanza ci conosce, sì, brava, grazie Elena, dalla regia, capito? Esatto. Poi ti racconto però fuori i microfoni perché ci conosce la finanza, però diciamo che questa è una cosa importante, nel senso che quando uno fa dei progetti di accoglienza di persone migranti e l'approccio è quello di fare piccoli appartamenti, quindi dove non ci sono troppe persone che vivono, no? In uno stesso appartamento, struttura, e questo è fondamentale, è più diluito, è meno di impatto, e l'impatto invece diventa molto più positivo e veramente acquisisce ancora più valore. Anziché negativo. Ah, bravissima Alice, era quella che mi veniva la parola. E la cosa importante è che bisogna interagire con il territorio. Secondo me potresti rilanciarti anche il discorso dell'inclusione. Sì, infatti quello volevo dire... Esatto. Allora, a parte Forza Argentina, sì, sempre dai, grande italiano. Stasera io tipo va Argentina quest'anno pure io. Speriamo che, però io dico da romanista che faccio entrare Dybala alla finale comunque, visto che io sono romanista sfegatato. Si parla di territorialità, rimarchiamo la territorialità. È una pippa assurda. Allora, però era per chiudere questo discorso, l'interazione col territorio è importante, ma con gli esercizi sia commerciali, con l'associazionismo, noi per esempio collaboriamo col The Frag, Petit Caffè che è un bar, Osteria 7, Tufo, The Frag che è un'associazione, se non mi dico tutte qualcuno si arrabbia, Ferramenta, Muzzafiato, insomma, Osteria 7. Come dire, un posto dove si fanno anche i corsi per imparare a suonare gli strumenti musicali, ad esempio, anche... è successo. Adesso noi stiamo facendo un corso per parrucchiere dentro. Però quello che volevo dire, per riallacciarmi al concetto di inclusione, con l'interazione è più facile promuovere inclusione. Non mai capito, Damian? Sì. Ok. Le piccole comunità che interagiscono col luogo, con la struttura sociale, secondo a mio avviso è una scelta vincente che comporta un'inclusione ancora più facilitata da parte di tutti quanti le parti, insomma. Abbiamo risposto, Pia? Sì, in maniera molto più che soddisfacente. E ora, vabbè, l'ultima domanda che i ragazzi fanno a Emanuele e a Fabio, così terminiamo questa nuova puntata. Una domanda semplice, qua stiamo a sudare, e i termosifoni sospetti, diciamolo. Per chiudere un po' quest'ultima domanda, volevo chiedervi cosa facevate prima di fare questa scelta di essere, come dire, gli irresponsabili di Welcome. I responsabili di Welcome, ecco, i membri di Welcome. Cosa facevate prima? Risponde prima Fabio. Beh, Fabio, la parola a te. Sei veramente un grande amico, grazie Emanuele. Vabbè, tanto ormai dovrebbe essere caduto in prescrizione, sono passati 20 anni. Quintilio Primo quest'anno festeggia i 20 anni, tra le altre cose. E da mia prima importavo argento dall'India e facevo il mangiafuoco. Esattamente. Ecco, no, è vero. Sono un po' ansioso per questa faccia. No, spero che sia caduto in prescrizione, sì, perché sì, se qualcuno sta all'ascolto... No. Emanuele, adesso tocca a te. Si è allontanato piano piano per prendere ispirazione. Allora, vabbè, come tutti un po', insomma, studi, no? Esatto, no, queste cose sì. Inizio della vita. Esatto. No, no, vabbè, ma a me mi aiuta, mi accompagna. Poi ho fatto per 16 anni lo scout. Wow! E quando hai smesso di fare lo scout? Vabbè, sto tipo... Ho iniziato a fare lo scout a 5 anni ho iniziato. Oddio. Appunto. E poi ho lavorato tantissimo al ristorante. Lavoravo nel ristorante, caposala, ero caposala, coi dread. E c'avevo solo una basetta. Ed ero una sola piccoletta, sembrava che c'avevo il microfonino, dico così. Sì, c'è uno vicino di casa mia che c'ha una barba così, fino a telecronista. Esatto, però c'era una sola, perché era fatta una barba così, una basetta tipo telecronista. No, ero diventato un po' il performer, no? Il telecronista della sala con quel coso, esatto, in forma di microfono. E poi ho iniziato subito a lavorare con la cooperativa di Aprismo 82. Alla veneranda età di 19 anni e mezzo, sì. Grazie a, così lo ricordiamo anche, a Gigi Brasca, che era un socio storico della cooperativa e faceva parte del consiglio d'amministrazione. Di chi? Di Prisma? Ma che stai a dire? 19 anni, insomma. Ho capito, ma la cooperativa è nata nell'82, da mia. Nel senso che sta fa vecchio. Damiano, ma quando finisce questa intervista? Non lo so. E dai. E niente, noi proseguiamo il pezzo musicale e poi torniamo per i saluti e le ultime chiacchiere con Welcome. Chi trova scontato, chi come ha trovato, na na na na. sogna i milioni, chi gioca d'azzardo, chi gioca coi fili, chi ha fatto l'indiano, chi fa il contadino, chi spazza i cortili, chi ruba, chi lotta, chi ha fatto la spia. Sei poco, chi gioca col fuoco, chi vive in Calabria, chi vive d'amore, chi ha fatto la guerra, chi prende il 60, chi arriva agli 80, chi muore al lavoro. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Ma il cielo è sempre più blu. Il cielo è sempre più blu. Stato multato, chi possiede la muto, chi va in farmacia, chi è morto di invidia o di gelosia, chi ha torto ragione, chi è Napoleone, chi grida al ladro, chi ha l'antifutto, chi ha fatto un bel quadro, chi scrive sui muri, chi reagisce distinto, chi ha perso, chi ha vinto, chi mangia una volta, chi vuole l'aumento, chi cambia la barca, felice e contento, chi come ha trovato, chi tutto sommato, chi sogna i milioni, chi gioca d'azzardo, chi parte per bevuta in tasca un miliardo, chi è stato multato, chi odia i terroni, chi canta prever, chi copia baglioni, chi fa il contadino, chi ha fatto la spia, chi è morto di invidia o di gelosia, chi legge la mano, chi vende amuleti, chi scrive poesia, chi tira le reti, chi mangia patate, chi beve un bicchiere, chi solo del santo, chi tutte le sere. E ritorniamo in diretta, ultimi minuti per noi. Nel frattempo ci è venuto a trovare il nostro amico Otello a sostenerci come sempre, a sostenere Jolly Roger. E abbiamo parlato insomma di, della realtà di Welcome, abbiamo raccontato dell'immigrazione come mi suggerisce la nostra amica Alice, abbiamo parlato anche un po' di religione, rastafarianismo, esatto, esatto, quindi diciamo che è una puntata ricca, ricca di contenuti, anzi fin troppi per i nostri gusti. Infatti Emanuele diceva la prossima volta ci vengo più, perché mi avete messo, cioè non si aspettava forse una cosa un po' più easy. Esatto, chissà che è venerdì pomeriggio, insomma il weekend si avvicina. E sono contento di aver portato una testimonianza e di essere cioè quella di Welcome è stata la prima, diciamo, intervista che i ragazzi Jolly Roger hanno portato finalmente a termine. E niente, sono contento insomma che anche Jolly Roger si affrontano certi problemi, certe dinamiche di vita quotidiana. E ora ripasso il mic a Emanuele, così ci fa i suoi saluti, ci racconta ultime cosette e ci sarà modo poi, spoileremo altre cosette prima dei saluti. Ok, vabbè, io intanto ringrazio tutto lo staff della radio, complimenti, a parte Damiano, e... no, Alice è bravissima, Alice, fantastica, e vabbè, io vi invito a venire stasera, se volete, all'aperitivo a via Valdinievole numero 8, per queste interazioni, e vi invito anche domani, se volete, a pranzo a Welcome a Serpentara, a via Colli da Serpentara numero 14, E, che dire, spero di rincontrarvi presto e propongo, dato che non ce l'abbiamo in scaletta, però per la prossima puntata, quando farete la prossima puntata, vi chiederei di mettere la canzone del maggio di Fabrizio De André. Quindi io l'ho detto pure a Pietro che oggi non ce l'avevamo, però magari se la prossima volta riniziate con la canzone del maggio. Grazie a tutte e tutti, grazie agli ascoltatori e ascoltatrici e bravi lo staff, bravo Pietro, bravo Dello, brava Elena, brava Chiara, bravi. E grande Lucone. Soprattutto grande Lucone. E passo anche il... Forza Argentina. Dai, mitico, Lucone punta tutto sull'Argentina. Faccio salutare anche a Fabio, che è stato un piacere, prima cosa conoscere, seconda cosa ospitare, e come detto prima ci sarà modo, insomma, di proseguire. Intanto riascoltate sicuramente, ci potete riascoltare tramite podcast che gireremo nei nostri canali, e passo il mic a Fabio. Ragazzi, è stata un'esperienza bellissima conoscere, che dire. Spero di rivedervi presto. Pure a te, vada mia. Ragazzi, una buona serata e un bacio ai pugni, mi raccomando. Per me pure è stata una giornata molto bella. Devo dire, ringrazio le persone che ringrazio le persone che sono venute. Emanuele e Fabio. Grazie. Io saluto tutti quanti e mi ha fatto molto piacere conoscere queste due nuove persone. E parlando di calcio, forza Argentina per quest'anno, che vorrei che Messi, che è il mio calciatore preferito insieme a Dybala, essendo romanista, vincano il mondiale spazzando via i francesi. E tutti vissero felici e contenti. Saluto dal nostro amico Lucone. Forza Dybala. Dai a tutti. Ultimo pezzo per noi, abbiamo parlato di rastafarianesimo, abbiamo parlato anche di Bob Marley, quindi è doveroso terminare la nostra puntata così, improvvisando, come ci piace a noi. Questo è Jolly Roger, un saluto a tutti e buon weekend. Oh.